Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Le donne hanno più confidenza col dolore, lo sanno trasformare in forza da sempre. E se il dolore è la costante della vita di una persona vitale, non può che trovare una collocazione vitale. Oggi parliamo dei colori di una terra che si rispecchiano nella storia di un artista e dei dolori di un'esistenza che pescano proprio in quei colori. Parliamo della capacità di rappresentare il proprio mondo interiore, selvaggio e dolce, attraverso la magia dell'arte, che trasforma una visione personale in visione universale. La storia di oggi è una storia da vedere, non solo da ascoltare. È una storia fatta di verde come la luce buona e tenue della natura, delle foglie, dei cactus. Fatta di giallo come la follia, la paura, ma anche il sole e la gioia. Di blu come la tenerezza e la distanza. Ma è una storia fatta soprattutto di rosso, come la passione, l'amore, il sangue e il dolore. È la storia di Frida Kahlo e del suo destino intriso di Messico, di rivoluzione, di terra, fuoco e di realtà. Destino che prende una certa direzione dopo un incontro decisivo, che riuscirà a dare corpo a questo marasma alimentandolo. Partiamo dalla sua data di nascita. Magdalena Carmen Frida nasce il 6 luglio del 1907 a Coyoacán, in Messico, anche se ci sono pareri discordanti al riguardo. Difficile reperire testimonianze dalla sua viva voce. L'unica traccia del suo pensiero è affidata ai suoi diari, dove a proposito della sua nascita lei stessa scrive: «A chi occorre la data esatta quando si può trovare una data che è certamente più vicina alla propria indole?» Sono nata con la rivoluzione, diciamolo. È in quel fuoco che sono nata, portata dall'impeto della rivolta fino al momento di vedere il giorno. Quel giorno era cocente, mi ha infiammato per il resto della mia vita. Da bambina crepitavo, da adulta ero una fiamma. Sono proprio figlia di una rivoluzione, non v'è dubbio, e di un vecchio dio del fuoco adorato dai miei antenati. Sono nata nel 1910, era estate. Di lì a poco Emilio Zapata, il gran insurrecto, avrebbe sollevato il sud. Ho avuto questa fortuna. Il 1910 è la mia data. Per inquadrare al meglio la vita e il carattere di Frida, occorre fare un passo indietro anche sui suoi genitori, Wilhelm Kahlo e Matilde Calderon. Il papà nasce a Baden-Baden, in Germania. All'età di 19 anni decide di andarsene per cercare un posto più stimolante, in una città dove ci sono solo stabilimenti termali. Sceglie il Messico, magico e liberatorio. Qui incontra, subito dopo la morte della sua prima moglie, Matilde, messicana di nascita ma di origini indiane e spagnole. Anche Matilde è fresca di lutto. Il suo grande amore, anch'egli tedesco, si è suicidato sotto ai suoi occhi, lasciando in lei una ferita indelebile, come un tatuaggio. Il loro matrimonio non sarà mai propriamente felice, cosa che condizionerà le scelte in amore della figlia. In un film dedicato alla vita di Frida, della regista Julie Taylor con Salma Hayek nel ruolo della protagonista, c'è un dialogo tra Frida e il padre che riassume perfettamente questa strana tensione tra i suoi genitori. Qual è la cosa più importante perché un matrimonio riesca? La memoria corta. E tu perché ti sei sposato, papà? L'ho dimenticato. Frida è la figlia preferita da Wilhelm, in spagnolo Guillermo. Tra loro c'è un bellissimo rapporto. Alla sua nascita lui vuole per lei un nome tedesco dal significato preciso, Frida, che significa pace. Lo vuole perché crede che il nome possa determinare la personalità di chi lo porta, anche se il parroco al momento del battesimo non è d'accordo, perché non esiste nessun santo che si chiami Frida. Alla fine decidono per Magdalena Carmen Frida. I primi due nomi per la chiesa, il terzo per la vita. Fin da bambina Frida è vivace, irrequieta. Non è facile vedere quella pace che il padre ha voluto infonderle attraverso il nome, se non come capacità di concentrazione o come rifugio per un'eccessiva vitalità. Quel rifugio che lei cerca continuamente nella loro grande casa, come ricorda nei suoi diari. Correvo con il mio segreto e la mia gioia fino in fondo al patio di casa e in un angolo, sempre lo stesso, ai piedi di un cedro, gridavo e ridevo, nello stupore di trovarmi da sola con la mia felicità. Il padre fa il fotografo. La sua curiosità di straniero che visita un paese come il Messico si materializza con successo in questo lavoro, anche con un po' di fortuna. Quando nel 1904 si stanno organizzando i preparativi per il centenario dell'indipendenza del Messico, il governo affida proprio a lui il compito di raccogliere una serie di documenti che sarebbero serviti per celebrare l'avvenimento, promuovendolo così a fotografo ufficiale del patrimonio culturale messicano. Di lì a qualche anno sarebbe nata Frida e sarebbe cominciata la rivoluzione messicana. I días después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! ¡Viva! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Dal 1910, per una decina d'anni, il Messico vive un periodo di follia. Uccisioni a ogni angolo delle strade, saccheggi ovunque, razzie, imperversano intrighi e regolamenti di conti. È un Messico in subbuglio. Ed è proprio in questa follia mista a libertà che Frida vuole riconoscersi, spostando di 3 anni la sua data di nascita. La madre mal sopporta questo carattere così esuberante della figlia, poco bambina e molto maschiaccio. A Frida piacciono gli scherzi, ne fa in continuazione, a scuola, per le strade. Il padre, però, vede in lei un'intelligenza superiore. E proprio per questo la asseconda sempre e comunque. Un giorno, all'età di 11 anni, Frida inciampa nelle radici di un albero mentre sta giocando e cade. Una caduta che porterà a galla un problema di salute. Un medico mi diagnosticò un tumore bianco. Un altro fu categorico, poliomielite. Mi toccarono parecchi mesi a letto, bagni in acqua di noce, impacchi caldi, un piede leggermente atrofizzato, una gamba più magra e più corta dell'altra e scarponcini ortopedici, tanto per gradire. È costretta a letto per giorni, un assaggio di quello che il futuro ha in serbo per lei. Al suo ritorno a scuola, gli stessi ragazzini che lei era solita prendere in giro non perdono l'occasione per deriderla chiamandola pata de palo, gamba di legno. La sua vitalità improvvisamente vacilla, ma l'energia che le arriva dalla sua terra e dalle sue origini pulsa nelle sue vene più forte di qualunque ostacolo. Non vuole lesinare sui centri di riabilitazione per Frida, la sua figlia prediletta. Così come non vuole mandarla in una scuola normale. Fare il fotografo non è di certo un lavoro che rende ricchi, ma le doti che il padre intravede in lei sono eccezionali e vuole quindi darle gli strumenti migliori per poterle esprimere. Lui arriva dalla patria di Nietzsche e di Hegel, crede profondamente nell'educazione al pensiero. Così Frida, nel 1922, fa l'esame di ammissione alla Scuola Preparatoria Nazionale, anticamera obbligatoria per gli studi universitari, e lo supera brillantemente. La scuola è un antico e illustre istituto gesuita, culla di qualche generazione di scienziati, intellettuali e uomini di Stato. Dopo il 1910 è uno dei centri della rinascita degli ideali patriottici messicani. È il periodo in cui si assiste anche al grande sviluppo dei primi pittori di murales, che devono contribuire a mettere l'arte al servizio delle masse. Ecco cosa scrive uno di loro, José Clemente Orozco. Gli artisti erano perfettamente consci del momento storico in cui erano spinti ad agire, dei rapporti fra la loro arte, il mondo e la società circostante. Per una fortunata coincidenza si trovavano riuniti nel medesimo campo d'azione un gruppo di artisti esperti e governanti rivoluzionari che capivano quale fosse il ruolo che spettava loro. Anche i fotografi, come il padre di Frida, introducono nei propri studi di posa sfondi che rappresentano paesaggi, indumenti, accessori tipicamente messicani. Gli anni 20 sono un'epoca di grande vitalità per il Messico, dove l'arte è considerata, al pari della scienza, una dinamica essenziale del progresso. Ed è in questo panorama culturale e politico che l'esuberante Frida cresce. È una bella ragazza, di una bellezza selvaggia e sobria, lontana dalla civetteria delle sue coetanee. Un corpo esile, capelli scuri e occhi neri, con sopracciglia folte e unite nel mezzo, quasi a formare sul suo viso una rondine in volo. Per andare a scuola, la madre le confeziona una divisa molto occidentale, una gonna a pieghe blu e una camicetta bianca, come si usa nei collegi europei. Si distingue dalle altre ragazze anche per questo. Loro tutte agghindate come signorinette. Lei decisamente più androgina, quasi ambigua. I compagni di scuola con i quali si attarda anche dopo le lezioni a parlare di filosofia hanno la sua stessa intelligenza vivace, come scriverà lei. Eravamo i figli di una rivoluzione e qualcosa di lei poggiava sulle nostre spalle. Era nostra madre adottiva, nostra madre nutrice. Non dovetti soffrire dei chi sono di certi adolescenti. Ogni passo era, e con esso ero. La mia vita era risolutamente protesa verso l'universale. Riuscivo persino a dimenticare la mia gamba. Sì, la sua gamba, quel primo segno lasciato dalla vita sul suo corpo, quel primo dolore che Frida ricorderà sempre, lascia passare però verso l'espressione più concreta della sua anima. La sua gioia di vivere è ovunque in quegli anni, tutta intorno a lei, nel suo paese, nelle sue amicizie, nella sua sete di conoscenza. La parola chiave della sua adolescenza è euforia. Non perde mai l'occasione di fare scherzi. Tra questi ce n'è uno in particolare, quello fatto all'altro protagonista di oggi, il pittore Diego Rivera. Diego Rivera. Come ci racconta Pino Cacucci, scrittore e grande conoscitore del Messico e dei suoi protagonisti. Da ragazzino era veramente una peste, per cui mentre Diego era già famoso come pittore, come muralista, dipingeva i suoi murales negli edifici pubblici di Città del Messico e avvalorava una fama così di Don Giovanni, insomma, tutte le modelle in qualche modo finivano per avere un rapporto non solo artistico con lui. Ecco, lei si divertiva tra le colonne a gridargli: sta arrivando Lupe, cioè Lupe Marin era la moglie di Diego allora. Nel 1922 Diego è già un pittore famoso nel suo paese, conosciuto anche a livello mondiale. Il ministro della cultura messicana gli commissiona di dipingere un murale nell'anfiteatro della scuola preparatoria nazionale. Per Frida è solo un passatempo dargli fastidio, con lo scherzo sulla moglie o insaponando le scale dove lui con la sua stazza imponente sarebbe dovuto scivolare. Ma a Frida per ora non interessa né la sua arte, se non come espressione di quel Messico che lei sente vivo dentro di lei, né tantomeno l'uomo. Il destino per compiersi ha bisogno del momento giusto, non solo dei protagonisti giusti. Per Frida è tempo per imparare a conoscere l'amore. Frida compie 15 anni. Un'età importante in America Latina, considerata decisiva per le donne, una specie di battesimo della femminilità. Credo che fu con la scoperta dei battiti del cuore, queste pulsazioni così forti, carnalmente reali, che io riconobbi l'amore. Il corpo è sempre al centro delle sue emozioni. Anche l'amore è una variazione del battito cardiaco. Una vita che pulsa a sangue come la sua non può che sentire come sente la natura, come sente l'animale, prima dell'anima. Si innamora del suo migliore amico, un compagno di scuola, Alejandro Gomez Arias. È un amore intenso, totalizzante come può esserlo solo a quell'età. È con lui quando il pomeriggio del 17 settembre del 1925 sale sull'autobus che la porta dritta verso il primo grande incidente della sua vita, verso la prima grande svolta del suo destino. Frida e Alejandro escono da scuola e corrono verso la fermata. L'autobus è già partito, ma con una corsa riescono a prenderlo al volo. Una volta saliti, approfittano degli ultimi momenti insieme prima di arrivare ognuno a casa propria. Si stuzzicano, ridono, piccole schermaglie d'amore. Gli autobus dei miei tempi non erano per niente affidabili. Cominciavano solo allora a circolare e riscuotevano molto successo. I tram erano vuoti. All'incrocio di fronte al mercato di San Juan, l'autobus si scontra con un treno che sopraggiunge dalla parte opposta. Lo schianto è fortissimo, lento, sordo e inesorabile. Frida viene sbattuta a terra, è cosparsa di sangue. È falso dire che ci si rende conto dell'urto, falso dire che si piange. Non versai alcuna lacrima. L'urto ci trascinò in avanti e il corrimano mi attraversò come la spada il toro. Frida tenta invano di alzarsi, ma ha qualcosa nella schiena. Non sente niente, non vede niente. Il suo corpo è trafitto da un'asta. Dal suo ventre spunta un oggetto di metallo. Ventre nato per ospitare la vita, adesso è solo sangue e dolore, senza il premio del parto. Ancora una volta il suo corpo si piega alla violenza del destino. Ancora una volta la sua vitalità lotta per avere la meglio. Donde no hubo sol para nosotros, llégame hasta mi corazón en nuestra alcoba azul. Mira. Alejandro se l'è cavata con alcuni giorni di ospedale, niente di grave. Per Frida, invece, è una lotta tra la vita e la morte. Come riporta scritta la sua cartella clinica, frattura della terza e quarta vertebra lombare, 3 fratture del bacino, 11 fratture al piede destro, lussazione del gomito, ferita profonda dell'addome prodotta da una sbarra di ferro entrata dall'anca destra e uscita dal sesso, peritonite acuta, cistite che necessita l'inserzione di una sonda per numerosi giorni. Frida sopravvive, ma è paralizzata a letto, costretta dentro a un busto di gesso per almeno 9 mesi. Dopo un mese di ospedale, viene riportata a casa. Le viene allestita una stanza con letto a baldacchino dove farle passare la migliore convalescenza possibile. Il padre la coccola, cerca di tenerle alto il morale. Una ragazza come lei costretta dentro a una prigione di gesso senza potersi alzare, che sofferenza! E Alejandro? Frida chiede di poterlo vedere. Nell'attesa di una sua visita, non fa che scrivere lettere. Se non vieni è perché non mi ami più per niente, eh? Nell'attesa scrivimi e ricevi tutto l'amore della tua anima gemella che ti adora. L'unica cosa bella che mi succede è che comincio ad abituarmi a soffrire. Quando il destino sceglie la propria vittima per dare il via a un nuovo corso degli eventi, probabilmente sceglie laddove sa che ci sono le risorse sufficienti per farcela. Nel caso di Frida è stato certamente così. Il padre la osserva, sdraiata e inerme, ma si sente fiducioso. Con quella forza e quell'intelligenza congiunte, Frida non può che cavarsela sempre. Anche adesso, che trovare i soldi per le sue cure e i suoi studi non è facile. Alejandro continua a essere l'unico pensiero dolce per Frida. L'amore, quello che i suoi genitori non hanno avuto, è per Frida un ingrediente fondamentale per completare la sua esistenza, pur essendo fonte di molte ferite, adesso e per sempre. E la sensazione che da allora non mi ha più abbandonato è che il mio corpo raccolga ferite, tutte le ferite. Frida scrive lettere, legge libri, annota pensieri, impiega tutto quel tempo a sua disposizione per fare chiarezza dentro di sé. Cerca di combattere la noia, data soprattutto dall'impossibilità di muoversi, cercando di portare del colore su quel gesso che le ricopre il busto. Prima ci disegna una farfalla, simbolo di libertà e leggerezza, tutto ciò che lei sente di non avere più. Poi un fiore, un pavone, delle radici, e così fino a non lasciare più un solo spazio libero. Un giorno la madre decide di farle mettere uno specchio sopra il letto. Il pensiero della madre è di farla sentire meno sola. Il risultato, invece, è quello di duplicare la sua solitudine e la sua desolazione. Frida non ha scampo. Si alza gli occhi, vede Frida specchio intrappolata nel busto. Se soffre per Alejandro, Frida specchio si addolora allo stesso modo. Se scrive qualcosa, Frida specchio legge subito ogni suo pensiero. Frida specchio, compagna implacabile, guardona, crudele. Lo specchio, carnefice dei miei giorni, delle mie notti, immagine traumatizzante quanto i miei stessi traumi, continuamente quell'impressione di essere segnata a dito. Frida, guardati. Frida è dappertutto, Frida sopra, Frida dentro, Frida fuori, Frida all'infinito. Come trovare il modo di conviverci? Ma ad un tratto lì, sotto quello specchio opprimente, si fece imperiosa la voglia di disegnare. Disponevo di tempo, non più soltanto per tracciare linee, ma per infondere loro un senso, una forma, un contenuto. Ecco che comincia a intravedersi il progetto del destino. Le risorse infinite di una donna straordinaria che vengono stuzzicate dalla sofferenza per farle compiere un nuovo percorso. Il banchetto per la sua nuova vita è apparecchiato, la padrona di casa ha preso posto. Si tratta solo di attendere l'ospite d'onore. Come già anticipato, il destino si compie se si combinano una serie di fattori. Tra questi, la circostanza di tempo è fondamentale. Anche per Frida sarà così. Pur avendo già incrociato l'altro protagonista di oggi, sarà solo dopo l'esperienza dell'incidente che prenderà davvero forma e significato il loro incontro. Non ricordo di aver mai pensato fino a quel momento di dipingere. Volevo essere medico. La pittura interessava me come tutti gli altri. Faceva parte di un universo culturale che ci preoccupavamo di assimilare. È vero, per esempio, che avevamo provato un reale piacere a guardare Diego dipingere il murale della scuola. Era affascinante, grandioso. Ma di lì a dipingere anch'io. Diego Rivera sta per tornare nella sua vita, ma sotto una nuova veste. Adesso che la pittura è emersa in lei sotto la pressione dello specchio, adesso che tutto il suo dolore è in superficie, trasformato in atto creativo, incontrare nuovamente il pittore più amato del Messico di quegli anni ha un nuovo sorprendente significato. Way down here, you need a reason to move. Feel a fool, running your stateside games. Lose your load, leave your mind behind, baby. Destini incrociati. Destini incrociati oggi è in America Latina, per l'esattezza in Messico. Sono gli anni 20, gli anni più ferventi culturalmente e politicamente nel paese. Una giovane ragazza dalla vitalità incredibile è alle prese con una convalescenza dolorosa dopo un incidente gravissimo che l'ha paralizzata per molti mesi. È Frida Kahlo. La prigione di un busto di gesso e uno specchio fatto montare da sua madre sopra di lei sul suo letto a baldacchino la portano sulla via di una nuova passione, facendo emergere tutto il suo dolore, che si trasforma in disegno. La pittura sembra scaturire dal profondo per Frida, straripa dalle ferite aperte nella sua memoria, dal suo immaginario interiore che si ciba di famiglia, di Messico, di rivoluzione e di amore. Il suo giovane innamorato Alejandro è partito per l'Europa e al suo ritorno la loro relazione è ovviamente finita. Ma Frida, dopo quel terribile incidente, il primo grande incidente della sua vita, come dirà lei in futuro, ha voglia di riprendere a vivere, di uscire, di frequentare quell'ambiente così vivace che il suo paese le offre. Sono gli inizi del 1928, quando comincia ad avvicinarsi all'ambiente artistico messicano, i cui protagonisti sono per lo più impegnati nella lotta comunista. E tra questi conosce Antonio Mella, editore, giornalista, rivoluzionario convinto, che vive con l'affascinante Tina Modotti. Ecco come ne parla Pino Cacucci, che sulla fotografa di origini italiane sta scrivendo una sceneggiatura. Tina Modotti fu anche molto amica di Frida Kahlo per un certo periodo. Tina aveva qualche anno di più, per Frida era un po' un esempio da seguire. Era la donna non solo grande fotografa, fotografa rivoluzionaria, ma anche militante politica. Quindi quando Frida si avvicina alla politica e diviene anche lei militante, prende ad esempio Tina Modotti. Tina si muove in questo ambiente artistico, militante e per certi versi scandaloso per le abitudini di vita scapigliate, per le idee liberali, per le relazioni che si allacciano e si sciolgono a seconda degli incontri. È l'ambiente dove Frida si sente più a suo agio, dove può giocare con la sua ambiguità, quella che già da bambina le veniva attribuita dalla madre. Frequenta Casa Modotti e una sera, nella calda atmosfera di una di quelle feste piene di gente, musica e fumo, avviene l'incontro decisivo della sua vita. Nel cuore della notte varca la porta di casa proprio lui, Diego Rivera, che con una pistola in mano punta il grammofono ed esplode dei colpi. La musica si interrompe e tutti smettono di ballare tra le urla di entusiasmo e gli applausi per quell'entrata così plateale. Diego è un personaggio dal fisico imponente e dai gesti smisurati. È il personaggio che tutti osannano, come ci conferma Cacucci. La leggenda di Frida e Diego prende avvio in quello che fu il periodo che potremmo definire più unico, irripetibile, assolutamente effervescente nella storia del Novecento e non solo, cioè la città del Messico tra gli anni 20 e 30. Fu un periodo straordinariamente fervido di passioni sociali, ma anche vivacissimo nell'ambito della creatività culturale e artistica. E in quel periodo Diego Rivera era già una celebrità, era l'artista rispettato e osannato da tutti, compreso dal potere, insomma, che gli affidava questi enormi spazi in luoghi pubblici. Diego è il leader del movimento muralista messicano, movimento che porta l'arte al di fuori della fruizione personale e intima delle collezioni private per farla diventare un'arte fruibile da tutti, coinvolgendo soprattutto gli spazi pubblici. Ecco cosa ne pensa lo stesso Rivera. In realtà, poiché l'arte è un'attività essenziale per la vita umana, non può essere privilegio di pochi. L'arte è un linguaggio universale e appartiene a tutto il genere umano. Che forma parte della società umana. Da dove arriva quest'uomo che quella sera a casa di Tina Modotti strega la giovane Frida Kahlo? Il suo curriculum è lungo almeno quanto il suo intero nome. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Tanta vita è già passata nei suoi occhi, tanti disegni, tante esperienze. Diego nasce nel dicembre del 1886 nella città di Guantanajuato. Il padre lo vuole indirizzare alla carriera militare, come da tradizione nella sua famiglia, ma la sua vocazione per il disegno si mostra sin da piccolo. Tanto che anche il padre si convince che ci sia del talento in quel bambinone dal fisico possente, iscrivendolo così all'Accademia di Belle Arti. Nel 1907 vince una borsa di studio che lo porterà in Europa, all'Accademia di Belle Arti di Madrid. La muerte sempre presente, no sa. nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. L'Europa è la culla della cultura in quegli anni più che mai. Diego ha solo 20 anni e decide di sfruttare il più possibile quel viaggio, passando di nazione in nazione. Dopo il Belgio, l'Olanda, l'Inghilterra, l'Italia, è la volta della Francia e nella fattispecie di Parigi, dove entra in contatto con un mondo costituito da una mescolanza di orizzonti, costumi e lingua diversissimi, ma solidali nell'amore per l'arte. La vita politica, inoltre, per lui è una preoccupazione costante. Geograficamente e storicamente si trova infatti al centro di una diagonale che dalla rivoluzione messicana, cominciata nel 1910, arriva alla rivoluzione d'ottobre del 1917 in Russia, passando per la guerra del 14 in Francia. La convinzione che l'opera d'arte possa contribuire a migliorare il mondo e a renderlo più umano è un concetto che matura proprio in quegli anni. Il pittore cerca addirittura una spiegazione fisica al fenomeno, come dice in un'intervista dell'epoca. L'opera d'arte è un agente capace di produrre determinati fenomeni fisiologici precisi, ossia secrezione ghiandolare notevole della ghiandola surrenale, che regola la vita umana, elemento tanto necessario alla vita dell'uomo quanto quello svolto dall'apparato digestivo. L'arte è una necessità vitale per l'essere umano. I 10 anni passati lontano dal Messico servono a Diego per completare il suo carattere e la sua formazione artistica. Conosce gli artisti dell'epoca, frequenta Picasso, discute con Modigliani che lo onora con un ritratto. Si reca in Italia a studiare gli affreschi. Quella calda sera d'estate del 1929 a casa di Tina, Diego è l'attrazione della festa. Coi suoi racconti sulla Russia e sul popolo russo, sulla Germania e la fervente Berlino, coi suoi caffè, le sue manifestazioni politiche, i suoi intellettuali. Frida è rapita dall'uomo, ma anche dalla storia che racconta. C'è qualcosa di familiare in quelle parole, c'è suo padre, ci sono le sue origini, la lingua che lei conosce, la cultura che è anche un po' la sua. Quando torna a casa, non può che continuare a pensarci. Guarda i suoi primi quadri, i suoi ritratti, e si domanda se un uomo come lui, con tutta quell'esperienza, possa essere in grado di darle delle indicazioni. È davvero la strada giusta per lei? Può pensare di intraprendere quel percorso? Ha la stoffa dell'artista? Così un giorno lo va a trovare. In breve, lui stava su un ponteggio all'ultimo piano del Ministero dell'Educazione quando arrivai con alcuni dei miei lavori sotto braccio. Lo avevo incontrato ad alcune feste, ma non avevo avuto con lui contatti diretti. Così, per un colpo di testa e con un po' di sfacciataggine, lo andai a trovare. Il giudizio di Diego, pur temendo Frida ci fosse un doppio fine, è estremamente sincero. Forse è vero, per Diego, con la sua fama di Don Giovanni, c'è dell'interesse per quella bella ragazza. Eppure, dopo aver visto i suoi quadri, è l'artista che ha il sopravvento. È un ottimo lavoro. Hai un vero talento. Oh, ma no! Non ti ho chiesto di farmi complimenti. Voglio una critica seria. Ma io sono sincero. Questi dipinti sono molto originali. Non hanno i soliti trucchi. Io ho bisogno che il tuo giudizio sia sincero. Credi davvero che dovrei continuare a dipingere? Sì. Sì. Frida deve continuare. Il dolore che l'ha attraversata con quell'incidente, l'esperienza dello specchio che le ha mostrato senza pietà tutta la sua sofferenza, la sua vita di donna, la sua vitalità di messicana, devono proseguire sulla strada dell'immagine, del disegno, della pittura. Persino Diego Rivera la invita a farlo. Il loro non è solo l'incontro di un maestro con una probabile allieva, ma è l'incontro di un uomo e di una donna, di due anime che decidono, al di là dell'arte, di rimanere incatenate l'una all'altra. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Destini incrociati. Destini incrociati è in Messico nell'estate del 1929. Frida Kahlo ha appena mostrato al muralista più famoso dell'epoca, Diego Rivera, alcuni dei suoi dipinti. vuole sapere se anche lei può diventare una pittrice, se ha la stoffa per farlo. Il consiglio di Diego è spassionato, deve continuare. Il suo talento e l'originalità dei suoi ritratti sono indiscutibili. L'interesse dei due però non si ferma all'arte. La loro è un'affinità che coinvolge l'anima, il cuore, la passione. Mercoledì scorso, nel vicino quartiere di Coyoacán, Diego Rivera, il discusso pittore, ha sposato Frida Kahlo, una delle sue discepole. La sposa indossava, come è possibile vedere dalla foto, un semplicissimo abito da città e il pittore un abito con gilet. Il 21 agosto Diego e Frida si sposano. Lei ha solo 22 anni, lui 43. Lei così minuta, mentre lui è enorme. La madre di Frida, Matilde, non è molto d'accordo. Forse perché vede l'amore vero, quello che lei non è riuscita a vivere. O forse solo perché vuole proteggere la figlia da altre sofferenze. Li chiamerà la colomba e l'elefante. Ma Frida ha sempre fatto di testa sua. Lei è libera e vuole quell'uomo. Intravede una nuova sfida. Stare con l'uomo che non sa essere fedele alle donne. Sposarsi in un certo senso alla sofferenza, alle ferite che sembrano ormai essere il suo modo per fare uscire allo scoperto la sua arte. Diego non sarà solo l'amore, ma anche il secondo grande incidente della sua vita, come dirà lei. Ci sono stati due brutti incidenti nella mia vita, Diego. Quell'autobus e tu. Diego è appena tornato dall'Europa. Ha voglia di riappropriarsi del suo passato precolombiano carico di mitologia, arte e violenza, dei suoi paesaggi, quelli che porta dentro dalla nascita con le sue tradizioni popolari. E Frida lo segue. Cambia il suo modo di vestirsi fino ad allora molto maschile per diventare la quintessenza della donna messicana, con sottogonne di pizzo, abiti dai colori sgargianti. La sua pettinatura si riempie di nastri e i gioielli si fanno pesanti, appariscenti. Difficile non notarla, come ricorda lo scrittore Carlos Fuentes. Ero a teatro a Città del Messico e si dava il Parsifal di Wagner. Stava per iniziare, quando un grido interruppe l'orchestra. Tutti guardammo verso la balconata in alto e vedemmo la magnifica entrata di Frida Kahlo, adornata come una regina, collane, braccialetti, anelli, forse per distogliere l'attenzione dalla debolezza del suo corpo, sempre così malato e immobile. Però lei si dava gioia con i vestiti e i gioielli. Lei era la sua opera d'arte. Quella notte c'era Wagner. Ma lei fu sicuramente più forte di Wagner. Ne sono certo. Al fianco di Diego, per Frida, cominciano anche i primi viaggi. Il pittore viene chiamato negli Stati Uniti per dipingere sulla facciata d'entrata del neonato Rockefeller Center di New York una delle sue opere. Il Partito Comunista comincia a non vedere di buon occhio questa sua amicizia con i governanti. Anche se sarà proprio a causa della comparsa tra la folla del suo quadro di un volto noto, quello di Lenin, che il signor Rockefeller Jr. straccerà il contratto con Diego. L'America sarà per Frida un'esperienza unica. L'America, gli americani, ma anche le dolorose esperienze di ben 3 gravidanze mai portate a termine, che finiscono inesorabilmente sui suoi quadri. Il suo corpo le ricorda continuamente che è viva, ma allo stesso tempo che la morte le è stata molto vicina. Ad ogni nuovo dolore, Frida impugna il pennello e dipinge il suo universo reale e simbolico, senza farsi ostacolare da nessuna costrizione morale o estetica. C'è il sangue che è donna, c'è il cuore che è amore, ma anche muscolo cardiaco, c'è la vita. Il Messico non si rende conto che sta nascendo la sua pittrice più rappresentativa, come ci dice Cacucci. Mentre Diego, appunto, veniva comunque osannato come un grande artista, Frida faticò molto di più ad affermarsi, perché lei era ancora legata alla tela. Lei in qualche modo raccontava se stessa, raccontava il proprio dolore intimo. Ecco, il Messico ci avrebbe messo molto, forse, ad apprezzare tutto ciò, scoprendo poi che quell'indissolubile legame tra vita e morte, e la morte è qualcosa di estremamente particolare presente nella filosofia di vita dei messicani, ecco, questo legame indissolubile lei riuscì a trasmetterlo in maniera esemplare nei suoi quadri. E così, pur avendo sicuramente un notevole successo in vita, forse solo con il tempo, soprattutto oggi, il Messico considera quasi più Frida come l'emblema intrinseco dell'anima messicana, forse più di Diego, che nei suoi murales in realtà si preoccupò di fare divulgazione, di raccontare la storia del Messico e in particolare di riscattarne le radici indigene. Diego alimenta la vitalità dell'artista, ma allo stesso tempo anche il dolore e la sofferenza della donna. Le sue continue relazioni extraconiugali, più o meno tollerate da Frida, arrivano al culmine verso la fine degli anni 30, con il tradimento più grande. Non solo infedeltà, ma tradimento vero, quello con la sorella di Frida, Cristina Kahlo. Comincia per Frida il suo periodo più prolifico dal punto di vista artistico, ma anche il più difficile dal punto di vista della salute. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te va. Diego, nonostante tutto, non manca di supportarla. Quando nel 1938 chiedono a Frida di esporre alcune delle sue opere a New York, alla Julian Levy Gallery, Diego scriverà un biglietto ad un critico d'arte, Sam Levinson, per raccomandarla. Mi raccomando lei non in qualità di marito, ma in quanto ammiratore entusiasta della sua opera. Aspra e tenera, dura come l'acciaio e delicata e sottile come l'ala di una farfalla, adorabile come un bel sorriso e profonda e crudele come l'amarezza della vita. Anche nella vita affettiva di Frida, così come non ha mai smesso di fare Diego, cominciano a entrare altre persone, uomini e donne. Ha una relazione con Lev Trotsky, rifugiato politico fuggito dall'Unione Sovietica e da Stalin, che Frida ospita nella sua casa paterna. Poi ci sarà la cantante messicana Chavela Vargas, un grande amore fatto di lotta alle inibizioni e nel pieno della libertà sessuale. Poi ancora André Breton, teorico del surrealismo, che si innamora della donna e dell'artista. Nel suo Il surrealismo e la pittura scriverà così: l'arte di Frida Kahlo de Rivera è un nastro intorno ad una bomba. Breton la inviterà infatti in Francia a esporre le sue opere. Per Frida è una grande occasione. Diego ormai fisicamente è lontano, anche se sempre nei suoi pensieri. Accettando l'invito di André, potrebbe mostrare di essere cresciuta anche artisticamente e di essersi emancipata dal pittore che l'ha spronata a seguire quella strada. Così, nel gennaio del 1939, decide di partire per Parigi. I racconti che Diego le aveva fatto sulla capitale francese sembrano non coincidere con quello che lei vi trova ora. Si sente sola. Le manca il suo Messico, le mancano i colori della sua terra, ma soprattutto le manca l'amore. La Seconda Guerra Mondiale è alle porte. Forse il clima che vede intorno a sé non le è favorevole proprio per questo. Nonostante tutto, incontra personaggi incredibili, come racconta nei suoi diari. Vasily Kandinsky si congratulò con me. Piangeva, tanto era commosso, e aveva gli occhialetti tutti appannati. Joan Miró mi strinse fra le sue braccia, con poche parole, ma molto slancio e affetto. Anche Picasso mi strinse fra le braccia, non risparmiando elogi. Proprio Picasso, dopo aver conosciuto Frida, scriverà all'amico Rivera: né tu, né Derain, né io sappiamo dipingere volti come quelli di Frida Kahlo. Parigi porta bene a Frida, anche come donna. Elsa Schiaparelli, affascinata dal modo in cui Frida si veste, crea per Tout Paris l'abito Madame Rivera. Vogue le dedica una copertina, mostrando la sua mano inanellata. Il Museo del Louvre non manca di acquistare un suo quadro. Insomma, sembra andare tutto nel verso giusto. Ma il fisico cede. Il suo dolore spirituale e corporeo, quel corpo che le si è imposto col suo dolore fin da subito, la sta abbandonando. E lei non smette di dipingere. La pittura ha riempito la mia esistenza. Ho perduto 3 figli. E tutto ciò che avrebbe potuto riempire la mia orribile vita. Tutto questo è stato sostituito dalla pittura. Credo che non vi sia niente di meglio del lavoro. Nel 1939 il matrimonio con Diego è sciolto. Per cicatrizzare le ferite fisiche e sentimentali, Frida dipinge la sua arte disperatamente vitale. Ma il loro legame è troppo forte. L'8 dicembre del 1940 si risposano. Hanno bisogno l'uno dell'altra. Sono degli amici, dei complici. Non sono più gli amanti di un tempo. Lei chiede solo lealtà, non fedeltà. I quadri di Frida si susseguono dolorosi e pieni di vita. Sono quasi dei versi di un'opera più grande che sta per giungere alla fine. Sembra di poterli leggere, decifrare. Si fanno guardare e ti guardano al tempo stesso. Ti guardano dentro, attraverso il viso di questa immensa pittrice che rappresenta l'universo mondo. Quello femminile inteso come quello da cui tutto ha origine. Quello della terra, quello dell'America Latina più ancestrale. Quello più profondo e intimo che scava in ognuno di noi, a volte ferendo. Ma è proprio dalla ferita che per Frida nasce tutta la sua arte. Frida ci lascia il 13 luglio del 1954 a soli 47 anni. Le ultime parole del suo diario sono: spero che l'uscita sia felice e spero di non tornare mai più. Si tienes un hondo penar, piensa a me.